Ed eccoci tornati su Radio ZM 1458, un pochino in anticipo, così magari facciamo un resume. Facciamo un piccolo riassunto della puntata precedente. Oggi verrà trasmesso il primo capitolo della saga del Remuschio. La settimana scorsa è andato in onda il prologo e quindi si entra nel vivo della storia, diciamo. Siamo tutti in trepidante attesa, anche perché in realtà, è un lavoro che va avanti, loro mi mandano le tracce, io le mando e via così, quindi chissà a che numero arriveremo di capitoli. Ma chi lo sa, saranno per adesso ce ne sono un po' pronti, noi stiamo andando avanti con la scrittura e niente, in questo primo capitolo iniziano a introdursi un po' tutti, una buona parte dei personaggi principali. Quindi c'è il cattivo che compare in lontananza, ci sono appunto i primi avvicendamenti della storia e niente. Ma tipo Melmo ci sta sentendo, secondo te? Mi ha detto che è andato a lavoro al campo dove lavora e quindi non ha grandissime disponibilità di internet, Vabbè, quindi. ricordiamo comunque che ci saranno i podcast perché riusciamo a registrare e a mandarli anche per la saga del Remus come per tutti gli altri programmi di Radio ZM. In questo momento infatti stiamo registrando. La sigla, certo, ovviamente, vi mandiamo la sigla e poi magari andiamo a pescare una delle due mani che hanno scritto il romanzo insieme al nostro Cesa. Quindi la sigla tutta per voi. Ci sono storie di un passato tanto remoto che lasciano un segno tanto profondo da venire dimenticate o scambiate per altre storie. Storie di un passato ben più recente, che confondono chi cerca di riesumarne in passato remoto e si ritrova a suo mal d'auto a leggere storie meno remote e molto, molto meno gremite. Qui stiamo, come d'autunno sugli alberi le spoglie, raccontando un passato che il tempo raccoglie, cercando le stringhe di quel che ci volle per dare alle folle gremite il suo folle. Viva il Remuschio, un po' donna e un po' maschio. Viva il sarcastico re col suo lascito. Onirico nano, rossiccio e robotico, gioca col logico nel mondo più illogico. Buongiorno a tutti, con questa introduzione stiamo aprendo la prima puntata di La saga del Remuschio su Radio ZM. E via, aguzzate le orecchie e godetevi il primo capitolo. Capitolo 1. Penuria e peluria. Era duro sopravvivere dopo l'anno Omega. Innanzitutto non c'era internet. Senza internet è un casino. L'arcipelago delle streaming belt è collassato. Il mullah Buffering Lama non ha più potere se non su una piccolissima regione tenuto sotto scacco da banner pubblicitari e richieste di non dire a tua moglie di questo gioco. Dovunque, un soffice velo di devianza sociale copriva uniformemente ogni cosa, lasciando una patina giallastra. È da lì che viene la mia famiglia, dall'isola di Speedy Share, da cui mio padre scappò dopo 72 minuti dall'inizio dei disordini, mentre tutti erano alle prese con lo spegnere e riaccendere il router, ahimè inutilmente. Il viaggio fino a Foresta Amazzonia sembrò un rapido passaggio dall'inferno al paradiso. La guerra non era ancora arrivata da quella parte del continente. Era in un campo profughi al confine tra Russia e Amazzonia, dove arrivavano sia i profughi delle regioni del nord, sia i conterranei di mio padre. Il campo era abitato da amazzoni e striminghi, in fuga dai rispettivi conflitti. In una delle grandi tende, forse proprio la più grande, viveva una donna anziana. Forse proprio la più anziana, sul cui volto trasparivano indicibili fatiche, forse proprio proprio le più indicibili. Veniva chiamata con ammirazione, con una certa verve nel gergo, ma il suo vero nome, sebbene avvolto nel mistero, si diceva essere più simile a dei gremlins che corrono. Mio padre si innamorò subito di questa vecchissima donna e fino a tarda età ha continuato a imbarazzottirsi pensando alle sue rughe. vi confessò un giorno in un momento di debolezza dovuto a un eccessivo uso di crema dopo sole. Lei però non ha mai ricambiato i suoi sentimenti. Quella donna veniva dalla foresta residenziale ed era stata aiutata nel suo lungo viaggio dalla figlia di Mitra e da una donna che si faceva chiamare Shama. Mio padre si legò molto a quella compagnia e iniziò ben presto ad aiutare nelle faccende di casa e a occuparsi della toilettatura della vecchia nel gergo. Durante questi candidi momenti intimi, la vecchia signora raccontava la sua vita e la futile vita di suo marito, morto da infame come nella migliore delle tradizioni amazzoni. Era solo questione di tempo prima che la guerra arrivasse fino alle regioni meridionali del paese e zoom, bang, tubum, pam, param, pa, wikitu no jutsu. La morte e la disperazione calarono sul campo e la risata sardonica del malvagio dottor Gender risuonava per le ormai sventrate vie del campo. Le bombe all'acido glicorico, solo l'ultima delle terribili invenzioni della It's Time for Men to Be la Puttana e le sue squadre della morte, facevano crescere una ispida e letale peluria su tutto il corpo che negli stadi finali provoca soffocamento da palla di pelo istantanea e fatale. Ovviamente le già scarse risorse della protezione civile dell'ormai piccolo e disorganico stato di foresta Amazzonia non prevedeva una situazione simile e i suoi operatori nel panico iniziarono ad evacuare i bovini e i loppidi necessari per il trasporto. Molte volte mio padre mi raccontò di quella notte. Si svegliò di soprassalto e lievemente in sovrappeso per la sua altezza, sentendosi un po' in colpa visti i tempi di penuria. Prima che se ne rendesse conto, dalla penuria si passò alla peluria e, captato il pericolo, montò in sella al bue gazzella della mandria di Nel Gergo e si diresse verso la tenda della vecchia. Prima che se ne rendesse conto, dalla penuria si passò alla peluria e, captato il pericolo, montò in sella al bue gazzella della mandria di Nel Gergo e si diresse verso la tenda della vecchia. Sopraggiunto, si accorse subito della situazione disperata e che il tempo delle scelte difficili era sopraggiunto come lui nella subordinata precedente. Nel gergo stava dando adito alle ultime energie per proteggere la figlia, aiutata da Shama che pareva più preoccupata per l'anziana amica che per lei stessa e appena lo videro, oppala, gli gettarono Dimitra tra le braccia. «Mi raccomandi», disse la vecchia nel gergo. «Occhio alle curve e ricordati di dare la pappa d'avena al mio bue gazzella se non vuoi che perda il suo magico muschio e non prendere sottomarche». Così dicendo, esplose in un tripudio multicolore di miccette, dando la possibilità al carismatico terzetto di evacuare la tenda. Shama si avvicinò a mio padre e serenamente appoggiò la mano sulla coda anteriore del bue gazzella. Recitò un'arcana formula. «Questo lo renderà volante. Sarà più facile per voi scappare. Proteggi la giovine, ad ogni costo. Essa ha un ruolo da svolgere e potrebbe cambiare il mondo». Così dicendo, Shama sciamò, e tutti furono felici perché puzzava oltremodo e oltre misura. Mio padre accese le sirene del bue gazzella volante, si fece spazio nello scenario ormai apocalittico e si diresse con quella premura proprio di chi sta rischiando la pellaccia o di perdere l'autobus verso il limite del campo più vicino, quello verso l'Amhekka, la città descritta nel suo libro dal professor Spinoff come oniricamente salubre e sogno di ogni maniscalco che si rispetti. Non aveva mai pilotato un bue gazzella volante e ben presto si accorse che era tutt'altra cosa rispetto a pilotare il campionato calcistico del suo paese. La massa muscolare pulsava rabbiosa sui suoi glutei, che da quel giorno furono scolpiti tanto da permettergli di mangiare gli spaghetti con la sola forza dell'ano. E la traiettoria della bestia era di difficile pianificazione. L'unica cosa che riusciva a ripetersi era la salvifica frase di quella buffa sciamana: «Ricordati del freno a mano sotto la coscia». L'unico problema è che mio padre aveva un problema alle mani. Non le aveva. Al loro posto aveva altri due gomiti, una deformità sfortunatamente molto diffusa nelle streaming belt, chiamata sindrome dell'articolato superiore. A causa di questa mancanza gli era impossibile domare la possente creatura e si fece prendere da tutto il panico che aveva seminato la precedente stagione. «Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto! Salvatemi, per favore!» Ma la gente era troppo presa a morire, uccidere o deriderlo. Tutti, tranne un giovanissimo orfanello, pensate di soli 6 mesi, che prontamente afferrò il pantagruelico pene della bestia portandolo ad un arresto istantaneo, una frizzante eiaculazione e una sottomissione totale. Con un agile balzo, il neonato saltò sul bue gazzella. Dopo essersi acceso una pipa come un declive londinese di fine 800, guardò quel pirla di mio padre, con lo sguardo di chi ne ha viste poche ma ci ha capito parecchio, e disse: «Storpio, guiderò io questo bue gazzella fino alla Mecca. Tu preoccupati della bambina e vedi di non rompermi troppo i coglioni». Che bambino adorabile! Quando ci si mette il destino, nulla pare impossibile. Nemmeno un neonato che fuma la pipa guidando un bue gazzella verso una città leggendaria. Proprio come stava succedendo davanti agli occhi di mio padre, che stringeva nei suoi gomiti la piccola Dimitra e una speranza riposta in quello strano orfanello. E non sarebbe passato molto tempo perché pensasse a queste creature come alla sua nuova famiglia. E un'incalzante spassosità. Bene, abbiamo visto, anzi abbiamo ascoltato il partire della vicenda e abbiamo visto i nostri eroi lasciare il campo su un bue gazzella volante. Esatto, questa prima puntata è l'inizio di un lungo viaggio e escono, diciamo, i primi personaggi che caratterizzano questa avventura e niente, abbiamo cercato di esprimere più nonsense possibile in ciascuno di essi e ogni tanto anche del vago significato tra le righe. Io vi esorterei a andare un po' più nel profondo rispetto ai riferimenti, perché a me interessano molto le suggestioni, a parte le canne, abbiamo capito, e io lo dico in modo positivo, nel senso che si sente ed è un bene che ci siano state, però dei riferimenti letterari, fumetti, musica, insomma coloriamo un po' questa puntata con della ciccia che possa permettere ai nostri ascoltatori di entrare meglio dentro lo stile inconfondibile di questo scritto. Ok, allora, cioè, innanzitutto, appunto, ribadisco che di riferimenti non è che ne abbiamo avuti molti e che, cioè, più che altro sono tutti riferimenti a cose nostre che abbiamo costruito nel nostro rapporto di amicizia lungo gli anni. Quindi, cioè, diciamo che il Remuschio come concezione, come saga, diciamo, come immaginario boschetto fantastico in cui svarionare è nato qualche anno fa durante un campeggio molto divertente in cui un'inondazione mise in grave pericolo le nostre vite e grazie a degli sforzi immani da parte oltretutto anche di gente che non conoscevamo e che è spuntata a caso in quel momento siamo riusciti a fare una diga per contenere l'avanzare dell'acqua del fiume sotto la pioggia. Per cui, insomma, ci siamo salvati e quell'evento divertente così che abbiamo vissuto ha fatto nascere il mito di Mario Molotov, che non c'entra una minchia con questa storia, però diciamo che è su un livello di immaginazione abbastanza affine. E quindi niente, da cose che abbiamo fatto, da eventi, da film che abbiamo visto, cioè... Appunto, noi abbiamo un background di trashate anni 80, anni 70, abbastanza esplorato, nel senso che abbiamo visto molti film di questo tipo, e quindi, insomma, di riferimenti non è che ce ne siano, però allo stesso tempo è tutto un attingere da un immaginario che ormai abbiamo creato da un po' di tempo e che quindi è per noi anche più facile proseguire, perché poi vabbè, va sempre un po' a periodi. Cioè. Certo, sì, diciamo che alcuni episodi, che poi faccio un piccolissimo spoiler dei prossimi capitoli. Piccolo, eh? Alcuni avvenimenti che succedono, diciamo, noi li abbiamo... facciamo riferimento a delle cose che abbiamo vissuto personalmente al di là della, diciamo, dello svarione del Remuschio e di Mario Molotov, che sono un bel condimento, però diciamo parliamo anche di cose avvenute qua intorno a ZAM, piuttosto che insomma svarionando in giro. Quindi c'è un'attinenza con la realtà distorta, deformata, ma comunque un'attinenza col reale esiste. Sì, più che attinenza al reale, perché la saga è tutta veramente retorica, cioè completamente a caso, Però c'è, cioè, diciamo, uno scambio continuo, sempre all'interno di questo immaginario, anche di cose che succedono anche nella quotidianità in giro, che vediamo, che abbiamo vissuto, personaggi anche che hanno caratterizzato le nostre vite e che in loro magari noi vediamo qualche cosa che fa parte di quell'ambito lì e quindi ce lo mettiamo dentro. Quindi, insomma, sì, magari a tratti abbiamo anche voluto esprimere qualcosa, però non mi accollo di dire che l'abbiamo fatto. Esatto. Cioè, diciamo che un'aderenza alla realtà è un po' azzardato come commento, diciamo. È proprio, boh. Diciamo, per fare un esempio, il continente in cui è ambientata questa storia si chiama Irlanda. E questa regione è suddivisa in due stati, che è la Russia e l'Amazzonia. L'Amazzonia è abitata dagli Amazzoni e dalle Amazzoni. E la frangia, insomma, un reparto dell'esercito sono gli Amazzoni. E durante la storia, cioè la storia inizia con una guerra tra Russia e Amazzonia, e in questa guerra loro si ritrovano a dover scappare da, appunto, il conflitto. Beh, però c'è anche il Granducato di Brianza. Esatto, e viene citata questa regione di questo continente che è il Granducato di Brianza. Poi ci sono le piantagioni di feta del Peloponneso, insomma è una... Esatto, l'arcipelago delle Streaming Belt che fa parte di Amazzonia, e quindi appunto già il mondo in sé è completamente a caso, però magari, cioè, ovviamente ispirato dalle cose reali. Ma questo Mario Molotov chi è? Vogliamo parlarne nella prossima puntata? C'è un sacco di tempo in realtà, però magari impiega 6 ore questo racconto. Sì, io, diciamo, ne sento parlare da mesi e ogni volta, sì, che si esorta Mario Molotov anch'io dico ah sì, però poi mi chiedo ma chi è? E prima è stato citato. Possiamo tenercelo per... io lo terrei per la prossima puntata, perché appunto è una storia complessa, cioè è una leggenda che sta, cioè, dietro soprattutto questa persona. Prima di fare un racconto bene, cioè fatto bene, avremo bisogno di un po' di documentazioni che magari in questi giorni ci recuperiamo in giro negli archivi più antichi, perché quasi tutto su di lui è andato perduto, però pare che in giro ci sia ancora qualcosa. Ma la presenza di questo Mario Molotov all'interno del Re Muschio c'è, oppure me lo sto sognando io? Diciamo, per i capitoli che avete ascoltato ancora non è mai stato citato Mario Molotov. No, cioè magari in quel mondo potrebbero conoscerlo, potrebbe anche lì essere un personaggio semi-leggendario, così, però non c'entra niente con la storia Mario Molotov. Giusto per stuzzicarmi ancora un po' l'immaginario, vi faccio l'ultima domanda, almeno di questa puntata, l'ultima mia domanda, poi vi esorto chi ci ascolta a mandare domande sulla pagina Facebook per i nostri compagni che hanno scritto questo bellissimo racconto. Come vi immaginate il contesto culturale a livello proprio di abbigliamento, tecnologie, cioè in che periodo storico siamo? Nell'oggi, nel ieri, nel domani? Proviamo un po' a capire anche quando vanno in giro, come vanno in giro, eccetera. Ok, allora anche in questo bisogna dire un po' i vari contributi che vengono fatti, perché ognuno di noi tre vede le cose in modo un po' diverso, cioè il Mene che definisce più gli ambiti sociali, politici, come sono strutturate politicamente le varie zone, quindi ha più un'immaginazione di quel tipo, mentre invece ad esempio io mi immagino più esteticamente i singoli oggetti, le cose, come sono fatte, così. Cesa si immagina personaggi, cioè nel senso anche Cesa ci dà dentro un sacco nelle cose, però appunto per rispondere a in che epoca è ambientato, ma senza dubbio è una specie di futuro / presente, perché anche solo l'arcipelago delle Streaming Belt è appunto il nucleo in cui viene smistato tutto lo streaming del mondo, e quindi insomma di sicuro siamo almeno al presente, o comunque c'è una struttura abbastanza magari anche distopica in certi tratti, però è una cosa mezza del presente, mezza di questo futuro immaginario, così. Sì, esattamente, è un esatto, un po' decadente, un po' distopica, una visione un po' distopica, demenziale, diciamo. Esatto, anche perché tutto, cioè il prologo di tutto quanto comincia con, diciamo, in medias res, con dei personaggi che non c'entrano niente con la storia di adesso e che si stanno dirigendo, stanno facendo un viaggio all'interno di questo spazio desolato, quindi palesemente in una situazione critica, apocalittica, così. Poi quello lo, cioè, verranno ritirato fuori probabilmente forse più avanti, devono ancora essere sviluppati, però abbiamo dato questo intro scollegato rispetto a tutta la trama proprio per evidenziare questo futuro un po' cupo. Esatto, questo è un po' il retroterra e il sottobosco della saga del Remuschio. Va bene. Bella, bene. Vi ricordiamo che questo scritto è in facere, nel senso che sta andando avanti adesso. Questa secondo me è una cosa bellissima, che iniziate già a buttarlo sulla radio e intanto continuate a buttare giù idee, eccetera. Quindi questo potrebbe essere anche un archivio utile per andare avanti, sicuramente. Ragionavamo prima che non so quanti casi ci sono stati di scritti, racconti, romanzi che escono prima come audiolibro. Esatto, che non in forma cartacea. Esatto, esatto. È proprio così. Abbiamo pure nella composizione dei singoli capitoli, quando ancora ci potevamo beccare tutti e tre a scrivere, utilizzavamo la sintesi vocale del computer per rileggerlo, perché ci faceva straridere anche come cadenzava le cose. Quindi anche la sintesi vocale del computer è, in qualche modo, ha un po' di proprietà intellettuale sulla cosa. Lo mettiamo poi nei credits dietro il libro, nel fondo di copertina. E vi informo che di recente ho chiesto appunto ai ragazzi se avessero voglia di preparare dei tappeti sonori da mettere durante le letture, e così hanno fatto. Quindi quello che avete sentito è tutta opera loro, noi abbiamo semplicemente premuto play e quindi stiamo creando un immaginario anche a livello sonoro. In questo caso, cosa abbiamo usato per il primo capitolo? So che ho detto che avevo fatto l'ultima domanda, poi basta, ma in realtà me ne è venuta un'altra. Allora, per questo capitolo il tappeto sonoro erano rumori di un mercato, perché appunto ambientato in un campo profughi sul confine di due insomma nazioni in conflitto tra loro, e quindi un po' di degenero, di rumori così ci potevano stare. Quello prima, che invece era ambientato all'interno della foresta Amazzonia, aveva un sottofondo di rumori di bosco. Chissà il prossimo capitolo. Chissà il prossimo. Che tappeto avrà? Bene, io proprio per sfizio rimanderei la sigla, perché mi è piaciuta, quindi la riascoltiamo. E ci risentirete martedì prossimo, sempre alle 15, su Radio ZAM. Rimanete sintonizzati con noi, perché dopo la sigla parte un po' di musica a rotazione. Qui io faccio questo annuncio, magari me la sto tirando malissimo, ma siamo collegati da più di 20 ore filate. Senza interruzioni, senza bug, senza un problema. Ora scherzavo. E quindi risentiamo la sigla, un po' di musica a rotazione. C'è una replica verso le 17 di Zona Rossa. E stasera sintonizzatevi sul canale di Non Una Di Meno, perché c'è il loro programma. Trovate tutto sul blog. Quindi ci sentiamo fra pochissimo. Ci sono storie di un passato tanto remoto che lasciano un segno tanto profondo da venire dimenticate o scambiate per altre storie. Storie di un passato ben più recente che confondono chi cerca di riesumarne in passato remoto e si ritrova a suo mal d'auto a leggere storie meno remote e molto, molto meno gremite. Qui stiamo, come d'autunno sugli alberi le spoglie, raccontando un passato che il tempo raccoglie, cercando le stringhe di quel che ci volle per dare alle folle gremite il suo folle.